Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Crediamo che il 15 giugno potrà essere, da quello che stiamo sentendo, da quello che sto sentendo, un po' il D-Day del turismo europeo, cioè si riaprono le frontiere, a parte alcune eccezioni. Una di queste eccezioni con cui stiamo parlando in questi giorni per capire quando vorranno riaprire all'Italia è l'Austria, con cui abbiamo continui confronti sui dati. Questo è il ministro degli esteri Di Maio, che naturalmente avete riconosciuto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che ha detto che il D-Day per ricominciare la circolazione libera nell'Unione Europea per i turisti che vanno e vengono quindi dai vari paesi, anche nel nostro e noi verso gli altri paesi, sarà il 15 giugno, perché sapete che è in missione Di Maio in Europa con vari paesi, ha cominciato con la Grecia e poi anche, dice, il nodo rimane soprattutto quello dell'Austria in questo momento, ma a un certo punto bisogna aprire le frontiere, e Conte e il primo ministro spagnolo Sanchez stanno facendo in queste ore, in questi giorni, pressione sull'Unione Europea, su Bruxelles, affinché coordini un po' in modo omogeneo tutte le riaperture delle frontiere europee. Ci occuperemo soprattutto di questo primo fine settimana, verso la fine della puntata, che è il primo forse vero fine settimana di libertà, almeno per quanto riguarda la nostra circolazione interna. Tra le regioni, purtroppo c'è già stato un incidente molto grave verso Arezzo sulla 1, e quindi mi raccomando, già quelli che stanno partendo oggi partiranno domani con molta prudenza, anche perché tanti magari sono un po' disabituati, no? A guidare, a trovarsi nel traffico, a fare lunghi viaggi. Mi raccomando, ne parleremo con l'associazione Amici della Polstrada. Poi naturalmente la politica, ci sono vari argomenti che riguardano non solo le misure economiche, ma anche per esempio un certo apprezzamento che risulterebbe dai sondaggi nei confronti del Presidente del Consiglio Conte e anche del governo, anche se il governo, insomma, comincia un pochino, anche se non è nuova questa cosa, ad avere delle divergenze interne o delle piccole fratture. Poi parleremo anche di scuola, non soltanto perché adesso vi aggiorno proprio in diretta, magari in aula, sul decreto scuola tra Lega e PD, accuse incrociate, il voto slitta a domani, questo decreto deve passare entro il fine settimana, altrimenti scade, ma c'è un'iniziativa del Veneto che rimanda a scuola, apre le scuole praticamente per l'ultima settimana disponibile per le scuole professionali. Comunque non vi racconto tutto, poi lo chiariremo con i vari ospiti, tra poco la sintesi della giornata. Per i vostri commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666. I dati sul coronavirus in Italia: netta discesa dei contagiati ma rimbalzo sui positivi per l'aumento dei tamponi, l'80% dei casi in Lombardia. Le frontiere europee: Conte e il primo ministro spagnolo Sanchez premono su Bruxelles per la riapertura coordinata dei confini. Scuola continua, attesa la discussione del decreto legge da approvare entro domani, e intanto in Veneto torna per l'ultima settimana in classe, tornano gli studenti degli istituti professionali. Mercati, dati americani e fiducia nella ripresa, tutte le borse in rialzo da Madrid a Milano. La giornata mondiale dell'ambiente, cresce il dibattito internazionale per un grande piano di investimenti pubblici in grado di salvare non solo l'economia ma l'intera umanità dal collasso climatico e sociale. E a maggio il record mondiale del livello di CO2. Cinema, 120 milioni di euro per le sale piegate dalla crisi causata dal coronavirus. Partiamo quindi dai dati sul coronavirus in Italia, come sempre offerti dalla Protezione Civile, decisa discesa a quota 36.976 degli attualmente contagiati, quindi nelle ultime ore meno 1.453, e rimbalzo dei nuovi positivi, 518, più 341 rispetto quindi ai 177 di ieri, poco meno dell'80% concentrati in Lombardia. Questo è quanto emerge appunto dal bollettino della Protezione Civile, che registra anche 85 nuovi decessi, più 3 rispetto a ieri e all'altro ieri, scusate, e il totale quindi dall'inizio della pandemia di morti in Italia è di 33.774. Continuano a crescere i guariti, restano ricoverati in terapia intensiva 316 pazienti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 65.000 tamponi e non sono stati registrati nuovi contagi in queste regioni: Campania, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Trento. Decreto rilancio, si lavora in commissione bilancio alla Camera all'estensione del super bonus al 110%, ipotesi che vede favorevole anche il governo. Un lavoro non solo sui contenuti ma anche di compromesso politico, quello che aspetta la Commissione Bilancio nei prossimi giorni visto il gran numero di emendamenti presentati al decreto rilancio. Circa 8.000 tra maggioranza ed opposizione, non più di 1.200 quelli che effettivamente andranno al voto. Tra le proposte di modifica che sicuramente raggiungeranno l'Aula c'è quella a firma di tutta la maggioranza volta ad estendere il super bonus al 110% per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici fino al 2022, anche a tutte le seconde case. Presenti su questo tema con sfumature diverse ma uguali nella sostanza anche emendamenti delle opposizioni. Per il superbonus si allargherebbe poi la platea dei beneficiari, includendo le strutture turistiche, a condizione che i proprietari siano i gestori delle attività. Potranno accedere gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi. Dal PD quindi emendamento per vincolare il taglio dell'IRAP a cali del fatturato di un terzo nel confronto tra aprile 2020 e 2019. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dalle scuole ai teatri, il piano in presenza del governo per le riaperture. Visiere, divisori in plexiglass, lezioni all'aperto e anche in musei, cinema, teatri prende corpo il piano per la riapertura dell'anno scolastico che il governo assicura sarà in presenza, mentre arriveranno risorse aggiuntive per oltre 4 miliardi di euro necessarie anche per rivedere l'edilizia scolastica in funzione antiassembramento. Alcune misure sono già contenute nel decreto scuola, oggetto di un duro scontro tra la maggioranza e l'opposizione che ha cercato in tutti i modi di allungare i tempi dell'approvazione finale. Intanto il Veneto fa da apripista con le classi terze e quarte delle scuole professionali che rientrano in classe per un'intera settimana con l'obiettivo di preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame per il diploma. Una platea potenziale di circa 12.000 allievi. A Bergamo invece le scuole si preparano al rientro a settembre con le nuove regole del distanziamento. Tra questi, due licei artistici che hanno già collocato divisori in plexiglass attorno a ciascun banco, misura che sta già suscitando polemiche, critiche anche per l'iniziativa di una maestra di scuola materna di Prato che dal 25 maggio legge le storie ai suoi bambini nel parco. Per la CISL non si rispettano le norme di sicurezza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi a proposito di scuola parleremo anche, vi dicevo, con l'assessora veneta all'istruzione, perché ha deciso il Veneto di riaprire le aule per le studentesse e gli studenti delle scuole professionali per l'ultima settimana disponibile di scuola. Parliamo di politica italiana. I sondaggi danno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in forte gradimento degli italiani e questo apre una falla nei 5 Stelle, però torneremo a parlarne nello spazio dedicato alla politica in questa puntata. Siamo alle frontiere europee. Conte e il primo ministro spagnolo Sanchez premono su Bruxelles per la riapertura coordinata dei confini, scrivono alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dicono: dopo settimane e grazie all'enorme sforzo delle forze dell'ordine, degli operatori della sanità, dei nostri cittadini, nel loro complesso, è tempo di pensare alla riattivazione delle nostre economie. In questo contesto, scrivono Conte e Sanchez, attendiamo la rapida ripresa di un elemento fondamentale del progetto europeo, cioè la libertà di movimento nell'area europea e di Schengen. Sale il pressing dei paesi europei più turistici per aprire al più presto le frontiere e arrivano i primi risultati. La Svizzera, che nei giorni scorsi aveva aperto solo ad Austria, Germania e Francia, ha annunciato che dal 15 giugno sarà garantita libertà di movimento da e per l'Italia e tutti i paesi europei. E la stessa decisione arriva dalla Germania, paese chiave per il turismo italiano. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri Heiko Maas al termine della visita a Berlino del titolare della Farnesina Luigi Di Maio, che spiega. Il 15 giugno potrà essere un po' il D-Day del turismo europeo, cioè si riaprono le frontiere. I capi di governo di Spagna e Italia, Pedro Sanchez e Giuseppe Conte, hanno chiesto il 4 giugno all'Europa, con una lettera alla presidente von der Leyen, che eventuali restrizioni ai movimenti siano ammesse solo in base a criteri oggettivi e condivisi, fissati dall'Agenzia Europea per le Malattie Infettive e non dai singoli paesi con decisioni che potrebbero essere discriminatorie. La commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson ha spiegato che il pieno funzionamento di Schengen dovrebbe arrivare non più tardi di fine mese, mentre le frontiere esterne dell'Unione rimarranno sicuramente chiuse fino al 30 giugno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto si ragiona in vista del possibile ritorno, per quanto riguarda l'Italia, possibile ritorno invernale del Covid-19 e della nuova campagna antinfluenzale. In vista della prossima stagione invernale, il Ministero della Salute, con una circolare, raccomanda la vaccinazione contro l'influenza a tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e agli anziani a partire dai 60 anni di età. Per queste categorie, oltre a quelle già previste, si prevede la gratuità del vaccino. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto di una probabile circolazione simultanea di coronavirus e virus influenzali e semplificare così la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, visti i sintomi simili tra Covid-19 e influenza. La vaccinazione antinfluenzale viene fortemente raccomandata e potrebbe diventare obbligatoria anche per tutti gli operatori sanitari che lavorano a contatto con pazienti o nelle residenze per anziani. La circolare invita anche le regioni ad anticipare le campagne di vaccinazione e avviare al più presto le gare per l'approvvigionamento dei vaccini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I mercati, Piazza Affari e tutte le borse europee chiudono forte la settimana, confermando lo strappo dell'inizio del pomeriggio. Madrid cresce del 3,6%, Parigi del 3,1%, Francoforte del 2,6%, Milano del 2,4%, con Londra che chiude la fila in rialzo dell'1,8%. L'ottimismo a Wall Street anche sui dati della disoccupazione e l'onda lunga degli interventi della Banca Centrale spingono i mercati. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, vola il lavoro appunto in America. Da aprile a maggio sono stati creati 2,5 milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è calato dal 14,7% al 13,3%, ben al di sopra delle attese. All'estero adesso, con l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice non è finita, non sarà finita fino a quando non ci sarà più il virus in nessuna parte del mondo. Lo ha sottolineato la portavoce dell'OMS della Sanità a Ginevra, Margaret Harris, che ha ricordato come l'epicentro della pandemia sia al momento nei paesi dell'America Centrale, del Sud e del Nord America, e si legge sui media internazionali, confermando che con l'alleggerimento delle misure di contenimento in alcuni paesi si è registrato un leggero aumento dei casi. Minneapolis, con le proteste di questi giorni, come sapete, in tutti gli Stati Uniti per la morte per soffocamento da parte di alcuni poliziotti dell'afroamericano di 46 anni George Floyd. Bene, il 75enne, oggi spinto a terra da un gruppo di poliziotti a Buffalo, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili ma gravi, lo ha detto il sindaco della città Byron Brown, che si è detto profondamente turbato dal video diventato immediatamente virale sui social che documenta l'accaduto. Parliamo adesso di Christian Bruckner, il principale sospettato della scomparsa e presunta uccisione di Maddie McCann, la bambina britannica di 3 anni svanita nel nulla quando era in vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007. Per gli investigatori tedeschi il materiale probatorio raccolto finora non è sufficiente per un'incriminazione di Christian Bruckner, il principale sospettato della scomparsa della piccola Maddie. Il 43enne sta attualmente scontando una vecchia pena per spaccio di stupefacenti inflitta nel 2011 ed è allo stesso tempo in custodia cautelare, perché lo scorso dicembre un tribunale tedesco lo ha condannato a 7 anni per stupro, ma il verdetto non è definitivo a causa di un ricorso. La procura tedesca di Stendhal sta intanto indagando per verificare se ci sia un legame tra la storia della piccola Maddie e un'analoga scomparsa nel 2015 di una bambina tedesca di 5 anni. L'altra notizia del giorno arriva dai media britannici, secondo cui Bruckner sarebbe entrato nei radar delle forze di polizia dei vari paesi coinvolti fin dal 2017, quando, evidentemente sotto controllo, si sarebbe tradito vantandosi con un compagno di bevute di sapere che cosa era successo a Maddie, mentre entrambi guardavano alla televisione in un bar tedesco un servizio sul decennale del caso. Enrico Pagliarini, Radio 24 e Le Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia con la cronaca, ci sono 2 bambini tra le 4 vittime dell'incidente avvenuto oggi nel tratto aretino della A1. E quanto si apprende da fonti sanitarie, i feriti sono 6, tra cui 2 minori portati negli ospedali di Siena, Arezzo e il pediatrico Meyer. Riaperto solo poco prima delle 17.30 il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla commemorazione delle vittime bergamasche del coronavirus. Il Capo dello Stato oggi ha confermato la sua presenza, invitato dal Sindaco Gori, all'esecuzione della messa da Requiem di Gaetano Donizetti, organizzata dal Comune di Bergamo e dalla Fondazione Teatro Donizetti, il prossimo 28 giugno al Cimitero Monumentale di Bergamo. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai 1. E da mercoledì l'Italia, come sapete, ha ricominciato a muoversi, si sta lasciando lentamente alle spalle i giorni delle zone rosse della prima emergenza. Tutto cominciò, lo ricordate, il 21 febbraio a Codogno, nell'Odigiano, dove da settimane ora non si contano più contagi. Qui, come sapete, a proposito di Mattarella, è stato il 2 giugno il Presidente della Repubblica e al ritorno a Codogno è dedicato anche il reportage di domani, in onda alle 8:10, firmato dalla nostra inviata Raffaella Calandra. Questa è un'anticipazione attraverso voci e emozioni degli abitanti di Codogno. Il ritorno è bellissimo, però il ricordo di quelli morti ci ha feriti profondamente. È dura, è stata dura perché ha toccato tutti. Questi due sentimenti che si uniscono, da un lato il ricordo di chi è stato provato dal virus e dall'altro la ripartenza, dobbiamo ripartire alla grande perché non possiamo stare fermi. Sembrava di vivere in un film. Ancora adesso penso che se uno dica arrivo da Codogno ci sia un po' di diffidenza, di smarrimento. Ci chiediamo sempre, ma lo diciamo quando ci chiedono ma da dove arrivate? Ci chiediamo, ma lo diciamo o no? Però alla fin fine paziente 1, ma abbiamo capito che il virus c'era già da molto prima. Per certi versi, per esempio rispetto ad altre zone, sto pensando a Bergamasco, siamo stati complessivamente più fortunati perché ci hanno chiuso subito e quindi hanno bloccato, in quei 15 giorni hanno bloccato il virus. Quando le frecce tricolori sono passate su Codogno mi sono sentita veramente viva per la prima volta dall'inizio della quarantena. È stato molto emozionante perché la piazza comunque era piena di gente, tutti abbiamo tenuto un metro di distanza, indossavamo tutti le mascherine, però è stato un momento davvero molto emozionante, guardavamo tutto il cielo e ovviamente ci siamo commossi, abbiamo ripensato alle vittime e a questi ultimi 3 mesi che sono stati un incubo per noi. Oggi giornata mondiale dell'ambiente, cresce il dibattito internazionale per un grande piano di investimenti pubblici in grado di salvare non solo l'economia ma l'intera umanità dal collasso climatico e sociale. Intanto si apprende che maggio 2020 è stato il più caldo di sempre nel mondo e che ha avuto anche il record mondiale del livello di CO2, di anidride carbonica quindi. E poi si apprende che la fuga di carburante a Norilsk è stata in Siberia, è stata contenuta e più di 200 tonnellate di derivati del petrolio e lubrificanti sono stati ormai raccolti. Lo ha dichiarato a Interfax un portavoce del Ministero per la situazione di emergenza in Russia. Poi comunque ci sarà spazio per parlare della giornata mondiale dell'ambiente. Per chiudere, chiusi in casa a guardare il film, il cinema tradizionale e le produzioni sono tra i settori più provati dalla pandemia. 120 milioni di euro per sostenere la filiera del cinema, lo ha annunciato il Ministero dei Beni Culturali. Il ministro Franceschini ha firmato stamane 2 decreti che danno fiato a tutti i segmenti del settore cinematografico, messo a dura prova dalla pandemia Covid. Il primo, del valore di 100 milioni di euro, rafforza il fondo per il cinema e l'audiovisivo, per finanziare gli investimenti della produzione e della distribuzione. Il secondo, del valore di 20 milioni di euro, potenzia invece le misure a sostegno dell'esercizio delle sale cinematografiche. In particolare, viene assegnato un contributo a fondo perduto di 10.000 euro a ciascuna sala cinematografica che ne farà richiesta, a cui si sommerà un ulteriore contributo calcolato in misura proporzionale ai mancati incassi. E a questi 20 milioni se ne aggiungeranno altri 20 presto, non appena sarà approvato in Parlamento l'emendamento al DL Rilancio. Le misure sono state descritte dal ministro Franceschini come un importante intervento per aiutare la ripresa dell'industria cinematografica, dove la prolungata chiusura delle sale e l'interruzione delle produzioni e dei set sta avendo effetti ancora profondi. Franco D'Assisti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, dopo questa sintesi della giornata è tempo di lasciare spazio tra poco agli ospiti con i vari approfondimenti. C'è la viabilità, visto che è così importante in questo primo fine settimana di grande circolazione. Mi raccomando, guidate con prudenza. Torno ratta come la... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, le informazioni e gli approfondimenti con gli ospiti, i vostri commenti naturalmente alla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 che è il numero per i WhatsApp. Poi c'è il Twitter di Effetto Notte oppure quello durante il giorno per alcune anticipazioni è Roby con la Y, linetta bassa Giordano. Per esempio c'è Alessandra che scrive: buonasera carissima Roberta, sono Alessandra, è dal 5 gennaio che non vedo mia figlia di 7 anni perché abita col padre in Svizzera, anche se abbiamo l'affidamento congiunto. La Svizzera non parla ancora di riaprire le frontiere agli stranieri. Io sono in preda al panico. Aiutami Roberta a sapere qualcosa di più. Mi ringrazio con tutto il cuore Alessandra. Tutto quello che ti posso dire è che la Svizzera, come altri paesi europei, riapre le frontiere il 15 giugno. Quindi ancora un pochino di pazienza, si capisce, Alessandra, insomma, che cosa puoi provare a non vedere la tua bambina dal 5 gennaio, cerca di resistere ancora un po' e insomma, se tutto va bene, dal 15 giugno potrai riabbracciarla, te lo auguriamo con tutto il cuore. Adesso addentriamoci invece nella pagina politica, vediamo il menù di oggi che cosa offre. Intanto saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara, bentornata. Buonasera. Allora, ormai sai che siamo nella fase 3, perché io fino a ieri dicevo siamo nella tappa terza della fase 2, perché ricordavo che c'era nel decreto del Presidente del Consiglio, le varie tappe erano il 4 maggio, il 18 maggio e poi il 3 giugno, però a quanto pare già si parla di fase 3, quindi ci vogliamo lasciare alle spalle la fase 2. Anche ieri Alberto Rioli, direttore del Sole 24, dice basta, siamo in fase 3, sei d'accordo anche tu? Sì, sì, fase 3. Vabbè, siamo alla fase 3, quindi è tempo allora. Anzi, direi che siamo già all'alba della fase 4. Addirittura, ma un po' troppo veloce tu, grande ottimista, l'inguaribile ottimista Barbara Fiammeri. Quindi è tempo di lasciarci un po' alle spalle, almeno il lockdown, mentre ancora sappiamo che il rischio da coronavirus, di un ritorno di una nuova ondata, eccetera, non è escluso, quindi dobbiamo avere ancora molta prudenza, però è tempo di misure concrete per rilanciare l'economia affossata da questa lunga necessaria chiusura, no? In questi giorni mi ha parlato delle iniziative della Banca Centrale Europea, che ha deciso di aumentare in modo esponenziale l'acquisto di titoli di debito dei vari stati, poi di altri strumenti europei che insomma adesso capiamo quando verranno svincolati, quando arriveranno questi soldi previsti da questi strumenti europei per risollevare l'economia europea, e poi il piano di rinascita di Conte annunciato nei giorni scorsi, e poi in corso di discussione il decreto rilancio del governo Barbara, no? Per il quale sono stati presentati 8.000 emendamenti, in parte dall'opposizione, in gran parte, ma anche dalla maggioranza, e mi pare che quello che trovi oggi abbastanza d'accordo sia l'ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico, antisismici o di installazione di pannelli solari, che potrebbe essere esteso anche alle seconde case, purché non di lusso. Barbara, che cosa vogliamo aggiungere su questo decreto rilancio che ancora deve insomma, ma diciamo che la misura che tu hai citato mi sembra la misura più significativa, cioè guardando alla crescita, no? E alla possibilità che metta in campo risorse e strumenti per innescare, come dire, una serie di aumenti virtuosi per le imprese e per i lavoratori. Beh, questo bonus effettivamente è riconosciuto da tutti, dalla stessa opposizione, effettivamente ha queste potenzialità. Ora speriamo sempre poi che nell'applicazione risulti facile. Per esempio, il bonus prevede che si possano scontare questi crediti d'imposta anche attraverso le banche, cioè sostanzialmente sarebbe la banca poi a pagare l'impresa per il lavoro, e quindi il cliente, chi ne usufruisce, non tirerebbe fuori una lira, un euro anzi. E speriamo che sia davvero così, perché abbiamo visto per esempio che con i prestiti non è stato proprio così, devono arrivare in 24 ore, invece non sono arrivati in 24 ore, quindi il proposito è sicuramente positivo, ora speriamo che si realizzi effettivamente, che si passi ai fatti. Poi per quanto riguarda i fondi europei, per esempio, sentiamo che cosa ha detto oggi Di Maio, oltre a dire che dal 15 giugno dovranno riaprire le frontiere in Europa, e con la pressione anche, raccontavamo nella sintesi della giornata, di Conte e il primo ministro spagnolo Sanchez dell'Unione Europea. Ma sentiamo su invece gli strumenti economici europei che cosa ha detto Di Maio, sentiamo. Ora sarà fondamentale difendere questo impianto, assicurando che le risorse addizionali siano effettivamente destinate alle aree più colpite dalla crisi, per rimettere in moto il cuore economico dell'Europa a beneficio di imprese e cittadini di tutti i paesi. Barbara, poi ritorniamo sulla crisi e su alcuni aspetti che riguardano il governo, però oggi hanno scritto una lettera a Conte e ai ministri competenti due presidenti di regione, che sono anche il presidente della conferenza delle regioni e vicepresidente, quindi Bonaccini e Toti. Hanno scritto questa lettera indirizzata appunto a Conte e ai ministri competenti, dove chiedono le elezioni regionali, dicono, vanno svolte entro la metà di settembre, così da consentire sia una normale ripresa dell'anno scolastico che rispetto di una importante scadenza elettorale. Entrambi gli appuntamenti sono molto sentiti dai cittadini, perché si tratta del futuro sia dei ragazzi che del governo dei loro territori. Nei giorni scorsi, diciamo, con un po' più prosaico si era espresso anche De Luca sulle elezioni amministrative, che sappiamo che per via del lockdown, di questo periodo di emergenza sono state man mano rinviate, adesso dovrebbero essere a settembre. Però Bonaccini e Toti chiedono, evidentemente da parte anche degli altri presidenti di regione, di non farli andare oltre la prima metà di settembre. Sì, ma questa era una richiesta, anche se ricordate, anche di Zaia. Sì. C'è stata un po' una guerra, che poi è una guerra trasversale, nel senso che comprende tanto il centrodestra che il centrosinistra, tra governatori e diciamo leader politici o governo, nel senso che i governatori spingevano per un ritorno rapido alle urne, motivandolo con il fatto che in autunno ci sarebbe potuta essere la famosa seconda ondata di Covid e quindi era molto meglio votare a luglio. Il governo invece ha ritenuto che il governo, ma anche leader politici dell'opposizione, per esempio anche Salvini non si è schierato per anticipare a luglio le elezioni regionali, cioè chi sostiene perché non vuole dare troppo vantaggio a Zaia, cioè a un'incoronazione di Zaia che sembra destinata a essere rieletto con una sorta di plebiscito. Fatto sta comunque che speriamo davvero, allora, al di là di tutti i vari giochini e retroscena, che queste elezioni si svolgano i primi di settembre, perché effettivamente i ragazzi non sono andati a scuola fino adesso, dovrebbero ricominciare con, si spera, la scuola con la presenza. Se poi pensiamo che ricominciano la scuola e la sospendiamo perché bisogna fare le elezioni, perché sappiamo che purtroppo in Italia si vota all'interno degli edifici scolastici, quindi di fatto si sospenderebbero le elezioni appena cominciate, con poi tutta la necessità della sanificazione eccetera eccetera, cioè, veramente dici è il caso di stringere un po' i tempi. Ho la sensazione, ed è una brutta sensazione, non la ho con questo governo, l'ho avuta in precedenza, ma anche con questo governo, che gli studenti veramente siano proprio l'ultimo pensiero dei nostri... Sai che è in discussione il decreto scuola che scade questo fine settimana, ho visto ancora bagarre, come si dice in aula, sì. Insomma, quindi tra Lega e PD in particolare, evidentemente è un nodo, un tema questo che riscalda moltissimo, poi ne parleremo da un altro punto di vista nel prossimo spazio. È molto semplice, sì. Tutti hanno figli, nipoti o comunque persone vicine o vicinissime che frequentano la scuola, da bambini ancora in fasce fino a ragazzi che frequentano appunto gli istituti superiori. Quindi è chiaro che c'è un coinvolgimento di tutte le famiglie, di qualsiasi come dire, appartenenza politica, certo. Regione, ed ecco perché... centro sociale, è completamente trasversale. Chiaro. Quindi la scuola veramente, se infatti si dice, insomma, tra i politici nel chiacchiericcio che frequento purtroppo, che se a settembre dovesse accadere che in qualche modo la scuola non funziona, scoppia la rivoluzione. Lo immaginiamo, certo. Barbara, senti, però sentiamo che cosa dice Zingaretti, segretario del Partito Democratico. È arrivato il tempo non solo di combattere il virus, ma di combattere contro la sfiducia, contro il rischio che non si percepisca un futuro possibile nel nostro paese, e noi vogliamo dare il nostro contributo. Continuiamo a combattere il virus, ma combattiamo anche contro il rischio della crisi del lavoro e della produzione, passando da questo punto di vista per gli interventi sui cantieri e per la riqualificazione urbana del territorio. Però, ecco, dice combattiamo anche il virus della sfiducia. In realtà, secondo il sondaggio Ipsos, l'ultimo sondaggio Ipsos, cara Barbara, pare che sia alta la fiducia nei confronti di Conte e anche nel governo Conte, anche se la Lega rimane il primo partito in questo sondaggio. Però sembra che Conte resti ampiamente il leader politico più apprezzato dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Si parla del 63%, 63 punti percentuali. Dietro di lui Giorgia Meloni e Roberto Speranza, comunque fermi al 36%, seguono Matteo Salvini al 34%, Dario Franceschini al 33% e Luigi Di Maio al 26%. Tutto sommato? Allora, sì ma questi sondaggi secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che la capacità di un politico è quella di prevedere quello che succederà di qui a qualche mese, perché i sondaggi registrano gli umori che sono, che sono molto altalenanti, no? Ci sono ondate emotive. Ma si sono sedimentati nelle ultime settimane. Faccio un esempio molto concreto. Sintetico, ho detto prima della scuola, no? Se dovesse scoppiare una bagarre sulla scuola a settembre, naturalmente i sondaggi sarebbero ben altri. È chiaro. Allora, i politici e chi governa ancora di più, cioè chi ha un ruolo di comando, deve porsi il problema di quali potranno essere, scusate il bisticcio di parole, i problemi che arriveranno tra qualche mese. E questo interventismo di Zingaretti che tu hai fatto ascoltare giustamente è perché il PD è molto molto, e sottolineo il molto, preoccupato che in autunno possa scoppiare veramente, non dico una rivolta, ma insomma che il peso della crisi, certo che malcontento, gli autunni caldi, insomma. Barbara, abbiamo ancora 22 secondi per dirmi se 21. È vero, tu che dici purtroppo, è vero che si sta preparando una lista Conte, un partito, qualcosa? Secondo me Conte lo fa per spaventare, poi non gli consiglio di farlo perché fa la fine di Monti. E se l'ha detto Barbara, Barbara Conte, ascolti Barbara Fiammeri, ti dico solo questa cosa: Federico scrive una fase 3 e solo una fase 2 che ha avuto fiducia in se stessa. Non è male, diciamo. Carina, bene. Abbiamo fiducia in noi stessi. Grazie Barbara Fiammeri, a ben presto, buon fine settimana. Grazie a voi, buonasera. Ciao cara Barbara. Ci fermiamo per una breve pausa di riflessione per i vostri messaggi. WhatsApp 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Note, tra poco andiamo in Veneto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, sapete, ascoltatrici e ascoltatori, che nel post-lockdown, a parte le misure per fronteggiare la grave crisi economica, no, che ne è inevitabilmente scaturita da questa emergenza coronavirus, di cui stiamo continuamente parlando in questi giorni, uno dei temi più caldi, più dibattuti, è senza dubbio la scuola, che per un po', insomma, sembra essere stata trascurata, perché naturalmente le priorità erano altre. Sino a qualche giorno fa era anche ancora sospesa la questione: che si fa? Si riaprono le aule, si riaprono le scuole prima della fine dell'anno scolastico, cioè dell'8 giugno. È rimasta questa cosa un po' nell'aria, dibattuta, con il comitato tecnico scientifico che non era molto favorevole, con il governo, in parte qualcuno che voleva, qualcuno che non voleva riaprire, insomma pressioni da una parte e dall'altra, finché alla fine il comitato tecnico scientifico ha detto sarebbe meglio ripartire direttamente, andare a settembre. Poi è stata avanzata invece l'ipotesi di far festeggiare almeno l'ultimo giorno di scuola, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Quindi l'8 giugno il comitato scientifico ha dato il parere favorevole, purché, ha detto, si facciano questi incontri, questo incontro dell'ultimo giorno all'aperto. Però che cosa succede? Mentre è in discussione in Parlamento il decreto scuola, che deve essere appunto approvato entro il fine settimana, altrimenti scade. Dopo che ieri si è tenuto un vertice sempre sul tema della scuola tra il presidente del Consiglio Conte, la ministra dell'Istruzione Azzolina e i sindacati della scuola, oggi per discutere delle varie questioni, no, da mettere a punto in vista della riapertura di settembre, i sindacati si sono detti insoddisfatti e quindi hanno confermato l'annunciato sciopero, già l'avevano annunciato nei giorni scorsi, proprio dell'8 giugno, cioè quello che è l'ultimo giorno, dovrebbe essere l'incontro per soprattutto gli studenti, le studentesse degli ultimi anni. Perché dicono i sindacati: dalla riunione non sono emerse idee risolutive rispetto al lungo elenco dei problemi, ad oggi in vista di settembre non si va oltre alle generiche intenzioni di tornare alle attività in presenza, ma senza alcun progetto definito e concretamente praticabile. Ma in tutto questo, quindi a parte tutto questo, che cosa succede? Che il Veneto, la Regione Veneto, oggi ha annunciato che le classi terze e quarte delle scuole professionali del Veneto rientrano in classe per un'intera settimana per preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame per il diploma. E su questo allora coinvolgo subito Elena Donazzan, che è assessora alle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro della Regione del Veneto. Assessora Donazzan, benvenuta e grazie della disponibilità. Grazie, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Quindi dovrebbe essere un ritorno sui banchi rivolto a una platea potenziale di oltre 6.000 studenti, se non sbaglio? Esattamente, sono gli ultimi anni delle scuole della formazione professionale del Veneto. I ragazzi devono comunque presentarsi agli esami di qualifica e agli esami del quarto anno, e quindi la proposta che noi abbiamo fatto, che abbiamo condiviso con queste scuole, è stata proprio quella di rientrare almeno per una settimana, almeno per preparare, ci sarà qualche alunno che dovrà recuperare magari un po' più di matematica, qualcun altro un po' più di italiano, qualcun altro la materia tecnica che devono portare, ma il senso è anche quello di dire: è riaperto tutto in Italia, perché la scuola no? Ecco, questo è il grande tema a cui dovremmo provare a dare una risposta, perché si è deciso giustamente che la vita debba tornare ad una normalità, ma per questo governo in particolare la scuola è stato l'ultimo dei pensieri, e per noi invece è il primo dei pensieri. Però, assessore Donazzan, non si poteva, cioè ormai era proprio, mancava questa settimana, si era fatto 30, direbbe qualcuno, facciamo 31, teniamo chiuso finché appunto è stato ritenuto sicuro dal comitato tecnico scientifico, e poi si riparte a settembre. Come mai proprio un po' questo strappo dell'ultima settimana? Ma perché riteniamo che i ragazzi debbano anche avere il senso della conclusione di un percorso della loro vita. Guardi, io mi stupisco che non siano rientrati a scuola tutte le scuole, tutti gli ultimi anni, quindi le quinte superiori, che devono preparare un esame che sarà un esame importante per la loro vita. Molti di loro proseguiranno la carriera universitaria, dovranno fare anche una selezione, qualcun altro parteciperà agli ITS, ma vale così per le terze medie. Le secondarie di primo grado sono state quelle che hanno sofferto moltissimo di questa formazione a distanza, bravissimi docenti, bravissime le famiglie che hanno accompagnato questi ragazzi, soprattutto i più piccoli, ma dalla terza media molti non si rivedranno più, perché andranno in percorsi diversi di studio, e anche per questi si è deciso che niente. E poi, mi perdoni, la cosa più bella che sarebbe dovuta accadere è che per le quinte elementari, e lei sa quanto tutti i sacri testi della pedagogia dicono quanto sia importante per una bambina vivere tra pari, li abbiamo tenuti chiusi in casa per 4 mesi ormai, non hanno potuto salutare la loro maestra, che è una figura educativa, non è solamente importantissima, non è solamente un modo per occupare del tempo. Senta, Crisanti, ormai notissimo virologo, che è stato un po', diciamo, la stella polare per il Veneto, no? Nell'emergenza Covid, oggi intervistato sulla 7, sentiamo che cosa ha detto, insomma, colto un po' di sorpresa da questa notizia che è arrivata appunto nel pomeriggio. Bene, ma ci stanno pochissimi casi, quindi è una decisione politica che ritiene che il rischio sia accettabile. A questo punto le decisioni sono tutte politiche. Io ho sempre detto che per un epidemiologo, un microbiologo, ogni caso è un caso di troppo, e poi chiaramente c'è sempre il rischio zero, non esiste, e chiaramente poi è compito dei politici prendersi la responsabilità. Quindi Crisanti, anche se non ha detto, non sembrava molto molto favorevole, però ha detto è una scelta politica, quindi chi fa scelte politiche si prende la responsabilità di queste scelte. Non ho paura di dire che lo facciamo con una certa, anzi con, in totale sicurezza. Le immagini delle scuole, che oggi invece di avere tutti i ragazzi a scuola hanno gli ultimi anni, quindi il distanziamento, gli spazi. Secondo, siamo andati al supermercato dal primo giorno. Oggi, per fortuna, da un bel po' di tempo stiamo vedendo una vita che sta tornando alla normalità. Si va fuori, si riesce anche ad andare a bere qualche cosa al bar, si va a fare sport. Questa è la vita normale, e soprattutto diciamo che la cosa principale è che tutti i dati epidemiologici ci dicono che siamo in una condizione di completo allentamento della virulenza del virus. Abbiamo deciso che la formazione in aula si potesse fare, e la formazione laboratoriale da almeno 15 giorni, quindi perché non far rientrare questi ragazzi per formarsi? Non ci sono controindicazioni. Per chiudere, assessore Donazzan, ma tutti questi ragazzi, quindi più di 6.000, siete sicuri che saranno tutti in presenza, che saranno tutti favorevoli loro e le loro famiglie a tornare questa settimana? Guardi, non c'è un obbligo, perché noi abbiamo già fatto tutto l'anno come si doveva fare, l'anno formativo così come quello scolastico, le sa che è andato in deroga. Se una famiglia sarà più preoccupata e quindi vorrà tenere il ragazzo a casa, non sarà assolutamente un problema. Ma noi abbiamo voluto dare anche questo segnale. Ci saranno delle misure di sicurezza? Ci saranno plexiglass che sono già stati ipotizzati per settembre, o mascherine, no, o qualcosa? No, noi rispettiamo esattamente le misure che sono state previste per gli esami in presenza per il quinto anno. Perfetto. Intanto allora buon lavoro, buona scuola, buona chiusura della scuola per le classi terze e quarte delle scuole professionali del Veneto. Grazie assessora Elena Donazzan. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E a proposito di scuola, sempre Roberto Giordano con voi, c'è chi studia come Francesco, studente universitario, in questo caso dice ciao Roby, ti ascolto mentre scrivo la tesi di laurea, quindi evidentemente ispiro concentrazione, dice il Covid ha rallentato tutte le prove di laboratorio e ora è una corsa contro il tempo, tienimi compagnia e ce la faremo, senz'altro Francesco mi raccomando, in bocca al lupo e gambe in spalla, vedrai che ce la farai e ce la faremo tutti, speriamo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, ce la farà il nostro ambiente, ce la farà il nostro pianeta, perché naturalmente anche l'emergenza Covid lancia a questo punto anche una sfida verso dei provvedimenti che possano puntare anche dal punto di vista economico a una ripresa sostenibile, no? Quindi l'importanza dei temi ambientali. Dicevo, giornata mondiale dell'ambiente, Fridays for Future Italia, ritornano i ragazzi che manifestavano, vi ricordate, prima del lockdown per i venerdì per il futuro in tutto il mondo, su esempio di Greta Thunberg, e si amplia anche la richiesta di un grande piano di investimenti pubblici in grado di salvare l'economia e l'umanità dal collasso ambientale. I ragazzi della Fridays for Future Italia chiedono al governo, Parlamento, di utilizzare, dicono, le enormi risorse che vengono mosse in questo momento, scrivono in particolare grazie al Recovery Fund europeo, vincolando gli investimenti a un reale piano di riconversione ecologica dell'economia. Questo, diciamo, è un dibattito, almeno dal punto di vista del confronto, così a parole, che sta facendo un po' il giro del mondo. Vedremo un po'. Intanto si apprende che questo maggio è stato il più caldo, il maggio 2020, da sempre in tutto il mondo, e anche il record assoluto a maggio per la concentrazione di anidride carbonica a livello globale. Ne voglio parlare con Nicola Pirrone, che è dirigente di ricerca dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR e docente di scienze ambientali all'Università del Michigan. Professor Pirrone, buonasera, bentornato. Buonasera. Professore, quindi a che punto stiamo? Maggio il più caldo, maggio col record di anidride carbonica a livello mondiale, questa è una sfida importante, è un momento cruciale per cercare di cambiare direzione? Beh sì, diciamo che abbiamo di fronte una grande opportunità, con il Recovery Fund, come lei ha già menzionato nella sua introduzione, la situazione è drammatica dal punto di vista ambientale. Ormai lo andiamo ripetendo da parecchi lustri, i cambiamenti climatici sono in atto, non è un problema che si risolve dall'oggi al domani, perché i cicli climatici sono abbastanza lunghi, quindi prima di vedere i risultati concreti occorre intraprendere strategie subito per vedere i risultati in domani, che non è dopodomani, ma c'è un certo lasso di tempo, quindi prima ci muoviamo e meglio è. Senta, se lei dovesse giusto citare 2-3 misure da prendere subito a livello globale, se fosse possibile, non so. Beh, sicuramente la prima cosa da fare è spingere a una riconversione industriale, una riconversione dei modelli di trasporto per decarbonizzare il più possibile l'economia, cioè utilizzare il meno possibile fonti che producono energia bruciando fossili, e quindi emettendo CO2, utilizzando più possibile sorgenti a impatto zero o basso impatto, come eolico, solare, geotermia e quant'altro. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, occorre anche avere un cambiamento di passo, un cambio di paradigma sia a livello culturale ma a livello di politica industriale, e quindi ci vuole una grande capacità politica per implementare strategie e attuarle. Beh, lei per esempio parlava di decarbonizzazione, sa che Trump è contrario, no? Quindi guida la principale, più potente paese al mondo, diciamo è difficile, no? Riuscire a muoversi in una direzione diversa quando il paese caput mundi ancora adesso... La vede in Beh, questo sì, modo? Diciamo che Trump non è solo, diciamo, in buona compagnia. Diciamo che finora le buone enunciazioni le abbiamo fatte, l'Europa, devo dire la verità, è sempre stata leader in questo, nello spingere le politiche ambientali internazionali in una certa direzione. Purtroppo però sono problemi globali, occorre un'azione globale che venga fatta solo dall'Europa e non viene fatta dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Brasile, come dire, avrebbe un effetto molto inferiore. Quindi l'Europa ora ha una grande opportunità, ma non solo l'Europa, in tutto il mondo cerchiamo di trarre benefici da questa sciagura che è stato il Covid, che ha imposto un cambiamento di passo anche all'economia, e speriamo che venga presa la direzione giusta, insomma, in questo senso. Lei che insegna anche all'Università di Michigan, che clima respira da un punto di vista atmosferico? Ma proprio negli Stati Uniti, sai, in accademia, come dire, siamo abbastanza liberi di pensiero. Quindi si spera che ci possa essere effettivamente un cambio di passo, vengano fatte scelte importanti e che convinte, che non si esauriscono in una legislatura. Occorre avere una decisione, chiaro, visione, lungimirante, no? D'accordo opposizioni e maggioranza, indipendentemente da chi sta governando in questo momento, in modo tale che le strategie vadano a 10-20 anni. Perché sono strategie che richiederanno tempo, tanta intelligenza, tante competenze messe al posto. Fate pressione almeno voi, scienziati accademici, professor Pironi, la ringrazio intanto. Ricordo, dirigente di ricerca all'Istituto di Inquinamento Atmosferico del CNR, docente di Scienze Ambientali all'Università del Michigan. Grazie professore, buon Grazie, lavoro. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Dicevamo che si torna a viaggiare in Europa dal 1 luglio e che però già il 15 giugno è il D-Day, è considerato, con la pressione che sta facendo anche il Presidente del Consiglio Conte e anche il Primo Ministro spagnolo Sanchez, affinché l'Europa insomma coordini l'apertura delle frontiere in modo omogeneo. Però soprattutto questo è il primo fine settimana di vera libera circolazione tra le regioni di noi italiani, no? E quindi sicuramente strade e autostrade cominceranno a riempirsi. Oggi purtroppo, ve ne parlavo nella prima parte della puntata, c'è stato anche un grave incidente sulla 1 verso Arezzo, quindi ci vuole molta prudenza e ricominciare con calma a circolare e andare verso, diciamo, la propria libertà, il proprio fine settimana. Ne voglio parlare con Giordano Biserni, che è presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale. Bentornato Biserni. Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera. Come stanno andando per il momento le cose? Insomma, c'è presidio, sufficiente presidio, visto che questo primo fine settimana in cui tanti si sentivano un po' così agli arresti domiciliari, inevitabili, lo sappiamo, per sicurezza sanitaria, però adesso bisogna muoversi insomma con cautela, con prudenza. Beh, guardi, giudicare quello che abbiamo visto delle settimane scorse, dopo la riapertura, diciamo, della mobilità totale, dopo il 3 di giugno, al di là delle regioni, i risultati sono stati abbastanza poco incoraggianti. Io voglio ricordare che nel weekend del 2 giugno, fra il venerdì, sabato e la domenica, fino al martedì, sono stati solo fra i motociclisti 12 incidenti mortali, con 16 vittime fra i motociclisti. Sabato scorso, nel fine settimana, abbiamo avuto anche in questo caso 11 incidenti delle notti del fine settimana, con 5 ragazzi morti, 4 sotto i 20 anni. Quindi è un monito questo, insomma. È un monito, però come la domanda che lei pone, se la vicinanza, guardi, se la paragoniamo a quella che abbiamo visto all'epoca del fermo totale, del lockdown, come si dice, certamente il paragone non regge. Noi avevamo visto che appena ci muovevamo in quell'epoca, pattuglie di ogni genere, elicotteri, droni sulle spiagge, per carità, tutto giustissimo, è stato utilissimo. Però questa, non dico un paragone del genere, però un rapporto anche adeguato in merito alla mobilità del fine settimana verso i santuari dei motociclisti, dei passi appenninici, sulle statali, eccetera. Noi vorremmo rivedere una presenza adeguata di pattuglie sul territorio, perché vede, le regole le conosciamo tutti, parliamo sempre di educazione e formazione. Chi è che non sa che non dobbiamo bere quando guidiamo? Chi è che non sa che non si usa il cellulare alla guida? Chi è che non sa che i limiti vanno rispettati? È che ce ne dimentichiamo, e questa riconquistata libertà, questa apertura, se vogliamo, dei cancelli, che è una cosa bellissima, purtroppo in molti casi è sfruttata male, perché in noi rimane la voglia di andare miscelata a una grande distrazione, a una grande voglia di guardare comunque sul cellulare, di ricominciare a prendere confidenza con gli alcolici, e poi di amare questa velocità traditrice che dà dei risultati spesso incredibilmente drammatici. Quindi muoviamoci con la libertà che abbiamo finalmente riconquistato, ma naturalmente con estrema intelligenza e con responsabilità verso noi stessi e soprattutto verso gli altri. Grazie Giordano Biserni, la ringrazio. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buon fine settimana. E come sarà questo fine settimana dal punto di vista meteorologico? Non posso che chiedere naturalmente al nostro raggio di sole, il nostro Paolo Corazzoni di Trebimeteo. Quindi raggio di sole vuol dire che... Ciao. Ho già capito, tutto chiaro. Allora guarda, rispetto alla giornata odierna che al centro-sud ha visto arrivare a 4 le temperature forti, vedremo un netto miglioramento nel weekend proprio al centro-sud. Guarda, nelle regioni centro-meridionali weekend più che discreto, sole bene o male protagonista, temperature in aumento anche vicine ai 30 gradi, quindi non dico estate, ma insomma si assapora aria davvero molto mite. Invece il nord Italia continuerà ad avere molta variabilità, non tanto domani che dovremo cavarcela con qualche temporalina in montagna, ma in pianura al nord domani troviamo anche 28 gradi, però domenica al nord riattacca a piovere, tra l'altro inizia la prossima settimana al centro nord sarà ancora molto variabile e instabile. Guarda, a mio parere prima del 15 del mese non potremo ancora parlare d'estate, poi ci sono buone speranze, insomma dai, da metà mese forse la situazione dovrebbe un po' tranquillizzarsi. E allora ti aspetto al varco, mi raccomando, Paolo Corazzo, buon tempo a te comunque sia, in ogni caso. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao, ciao, ciao. Paolo. In cielo.